Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tommaso Ragno legge Camera con vista, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Marcella Bonsanti. Io insegnai a mio figlio George ad avere fiducia nell'amore. Tremolò la voce del signor Emerson. Gli dissi, quando arriva l'amore, ecco la realtà. E gli dissi, la passione non acceca, no. La passione è sanità mentale. È la donna che ami. Sarà lei la sola persona che capirai sempre realmente. Sospirò. Vero? Perennemente vero. Benché la mia giornata sia finita e benché il risultato sia questo. Povero ragazzo, è così spiacente. Ha capito che era una follia, mi ha detto, quando lei ha fatto entrare sua cugina, e che di qualunque natura fossero i suoi sentimenti, lei non li avrebbe mai chiariti. Eppure la voce trovò maggiore forza, e il vecchio parlò arditamente per accertarsi. Signorina Hanichurch, rammenta l'Italia. Lucy scelse un libro, un volume di commenti all'Antico Testamento. Tenendolo all'altezza degli occhi, disse, «Non desidero discutere sull'Italia su altri soggetti attinenti in qualche modo a suo figlio». Ma se ne rammenta. «Si è condotto male fin dal principio. Io sono venuto a sapere che la ama soltanto domenica scorsa. Io non sono mai stato capace di giudicare la condotta altrui, ma si vede che la sua sarà stata cattiva». Sentendosi un poco più calma, Lucy ripose il libro nello scaffale e si girò di fronte al vecchio. Aveva la faccia flaccida e gonfia, ma gli occhi, pur essendo molto infossati, scintillavano del coraggio di un bimbo. «Diamine, si è condotto in maniera spregevole», gli disse. «Sono contenta che se ne rammarichi. Lo sa cosa ha fatto?» «Non in maniera spregevole», fu la blanda rettifica del vecchio Emerson. «Ha soltanto tentato, mentre non avrebbe dovuto tentare. Lei ha tutto quello che vuole, signorina Hanichurch. Sta per sposare l'uomo che ama. Non esca dalla vita di George affermando che è un essere spregevole». «No, si capisce», disse Lucy, vergognandosi del riferimento a Cecil. «Spregevole è un termine davvero troppo forte. Mi scuso di averlo adoperato parlando di suo figlio George. Dopotutto sarà meglio che vada in chiesa dove mi hanno preceduta mia madre e mia cugina. Non sono poi tanto in ritardo». «Specialmente perché George è spacciato», gli disse con voce sommessa. «Eh? Cosa? Spacciato, naturalmente». Il vecchio giunse le palme in silenzio. La testa gli cadde sul petto. «Non capisco». «Come fu spacciata sua madre?» «Ma signor Emerson...» «Signor Emerson, di che mai sta parlando?» «Di quando non permisi che si battezzasse George». Lucy si spaventò. «E lei la pensava come me. Diceva che il battesimo non è nulla. Ma poi a 12 anni il ragazzo si prese quella febbre e allora cambiò idea. Credette che fosse un castigo». Il vecchio rabbrividì. «Ah, che orrore. Dopo che ci eravamo sbarazzati di tutta quella roba e che avevamo rotto definitivamente coi suoi genitori. Ah, che orrore, peggio di ogni altra cosa, peggio della morte, quando abbiamo sgombrato una piccola radura nella selva, quando abbiamo piantato il nostro giardinetto, aperto il varco ai raggi del nostro sole. Proprio allora la malerba torna a infiltrarcisi dentro. Un castigo. E il nostro ragazzo si prese la febbre tifoidea perché nessun prete gli aveva versato dell'acqua sul capo in una chiesa. Ma le pare possibile, signorina Hanichurch? Dovremo continuare a scivolare perpetuamente indietro nella tenebra». «Non saprei», balbettò affannosamente Lucy, «non capisco questo genere di cose. Non sono fatta per capirle». «Ma il signor Eager venne mentre ero fuori e agì in conformità dei suoi principi. Io non condanno lui né nessun altro, però quando George guarì, si ammalò lei. Il signor Eager la indusse a pensare al peccato e lei fu spacciata a forza di pensarci. Era stato così che il signor Emerson aveva ucciso la moglie al cospetto di Dio». «George non fu battezzato», egli soggiunse. «Io tenni duro e spostò gli occhi intrepidi lungo le file dei libri come se, a quale prezzo, avessi ottenuto una vittoria su di loro. Il mio ragazzo tornerà intatto alla terra». Lucy gli domandò se suo figlio era ammalato. Domenica scorsa il vecchio si rifece al presente. Giorgio, domenica scorsa, no, non è ammalato. È semplicemente finito. Non si ammala mai, ma è figlio di sua madre. Ha gli stessi suoi occhi. E anche lei aveva quella fronte che a me sembra così bella. E lui penserà che non vale la pena di vivere. Si è sempre camminato sul filo del rasoio. Giorgio vivrà, ma pensando che non vale la pena di vivere, che nulla vale che ci diamo un minimo di pena. Ricorda quella chiesa a Firenze. Lucy la ricordava. E ricordava anche di aver suggerito che Giorgio facesse collezione di francobolli. Quando lei partì da Firenze, fu orribile. Poi prendiamo questa casa e lui va a fare il bagno con suo fratello e migliora. Lo vide lei mentre faceva il bagno. Mi rincresce. Ma non serve discutere su questa faccenda, davvero, mi rincresce profondamente. Dopo è successo qualcosa a proposito di un romanzo. Non ho seguito tutta la storia, dovevo ascoltare e ascoltare, e a lui non faceva piacere confidarsi con me. Mi giudica troppo vecchio. Ma pazienza, ognuno di noi deve accettare le proprie insufficienze. George viene a prendermi domani per portarmi nel suo appartamento di Londra. Non se la sente di rimanere da queste parti e bisogna che io stia dove sta lui. Signor Emerson, gridò la ragazza, non se ne vada, almeno non per causa mia. A giorni partirò per la Grecia, non lasci la sua casa così comoda. Era la prima volta che la sua voce esprimeva la sollecitudine e il vecchio sorrise. Come siete buoni tutti voi. Guardi il signor Bibb quando è venuto stamani da me e ha saputo che me ne andavo. Si è subito offerto di ospitarmi. E sto così bene in questa stanza, davanti al fuoco. Sì, ma non tornerà a Londra. Sarebbe assurdo. Devo stare con George. Devo convincerlo a interessarsi alla vita. E qui lui non può. Sostiene che l'idea di vederla e di sentire parlare di lei... Non lo giustifico, sto solo dicendo cos'è accaduto. Oh, signor Emerson, Lucy gli prese la mano. No, non deve ritornare a Londra. Ho già dato abbastanza fastidi al mondo finora. Non voglio che abbandoni la sua casa dove sta così volentieri e che forse ci rimetta dei soldi tutto per causa mia. No, deve restarci. Tanto io vado in Grecia. Niente di meno che in Grecia. La fisionomia di Lucy si alterò. In Grecia? Perciò lei deve restare. So che non parlerete di questa storia. Posso fidarmi di tutti e due. Certo che può fidarsi. O l'abbiamo con noi, nelle nostre vite, o la lasciamo alla vita che si è scelta. Non vorrei che... Il signor Weise deve essere arrabbiatissimo con George, vero? Sì, George ha avuto torto a tentare. Abbiamo forzato i limiti delle nostre teorie. Si vede che meritiamo il dolore. Lucy tornò a guardare i libri, neri, marrone, e di quello stridente color turchino teologico. Accerchiavano i visitatori da ogni parte, si ammassavano sui tavoli, premevano addirittura contro il soffitto. A Lucy, che non era in grado di capire che il signor Emerson possedeva una profonda religiosità e differiva principalmente dal signor Bibb in quanto era un assertore della passione, sembrò un'infamia che il vecchio dovesse strisciare in un simile santuario mentre era infelice e dipendere dalla munificenza di un prete. Nella convinzione che la ragazza fosse stanca, il signor Emerson le offrì la propria poltrona. «No, per favore, non si incomodi. Andrò a sedermi in carrozza. Signorina Honeychurch, lei deve essere stanca». «Neanche un po', disse Lucy con labbra tremanti. Sì che è stanca, e ha un'espressione che ricorda George. E cos'è che diceva a proposito di un viaggio all'estero?» Lucy tacque. «In Grecia». E si avvide che il vecchio rifletteva sulla parola. In Grecia. Ma doveva sposarsi entro l'anno, se non sbaglio. Non ancora. A gennaio Lucy giunse le mani. Avrebbe detto un'autentica bugia se si fosse trovata alle strette. Immagino che il signor Weiss parta con lei. Le auguro... Non sarà mica perché George ha parlato che ci andate tutti e due. No. Spero che le piacerà visitare la Grecia. Col signor Weiss. Grazie. In quel momento tornò dalla chiesa il signor Bibb. La sua veste grondava di pioggia. «Benone», disse bonariamente, «contavo su di voi perché vi faceste compagnia. Piove di nuovo a catinelle, la congregazione al completo, composta di sua cugina, di sua madre e di mia madre, è rimasta in chiesa ad aspettare l'arrivo della carrozza. Powell si è messo al riparo?» «Credo di sì, vado a vedere». «No, naturalmente vado io. Come stanno le signorine Alan?» «Benissimo, grazie. Ha detto della Grecia al signor Emerson?» «Ma sì, Non le pare, signor Emerson, che la signorina Honeychurch dimostri un bel fegato accollandosi quelle due brave donne? Ma che fa, signorina Lucy? Torni indietro, resti al caldo. Trovo che il 3 è un numero coraggiosissimo quando si tratta di viaggiare. E il reverendo uscì in fretta dallo studio per recarsi in scuderia. Lui non viene, disse Lucy con voce rauca. È stata una mia svista. Il signor Weiser rimane in Inghilterra. Chissà perché? Le era impossibile ingannare quel vecchio. A George, a sé si l'avrebbe mentito di nuovo. Ma quest'uomo sembrava così prossimo alla fine delle cose, così dignitoso nel suo accostarsi al baratro del quale lui dava un'interpretazione, mentre i libri che gli stavano intorno ne davano un'altra, così mite verso gli aspri cammini che aveva percorso, che il vero spirito cavalleresco, non quello trito del sesso, ma il vero spirito cavalleresco che tutti i giovani possono professare a tutti i vecchi, si destò in lei e a costo di qualunque rischio gli disse che Cecil non l'avrebbe accompagnata in Grecia e parlò con tanta serietà che il rischio divenne certezza e lui, alzando gli occhi, chiese: «Lo lascia? Lei lascia l'uomo che ama?» «Era... ho dovuto lasciarlo.» «Perché, signorina Honeychurch? Perché?» La colse il terrore e mentì ancora una volta. Fece il lungo, convincente discorso che aveva fatto al signor Bibb e che si proponeva di fare al mondo quando avesse annunciato la fine del suo fidanzamento. Lui stette ad ascoltarla in silenzio e poi disse: «Sono preoccupato per lei, mia cara. Ho l'impressione», e parlava con aria trasognata, Lucy non ne fu intimorita, «che abbia le idee confuse». Lucy scosse la testa. «Creda alla parola di un vecchio. Non c'è al mondo nulla di peggio che avere le idee confuse. È facile affrontare la morte e il fato e le cose che appaiono tanto tremende. Sono gli abbagli che ho preso, il cui ricordo mi empie di orrore, le cose che avrei potuto evitare. Possiamo aiutarci ben poco, scambievolmente. Un tempo mi consideravo in grado di spiegare ai giovani la vita nella sua interezza, ma oggi ci vedo più chiaro e tutto il mio insegnamento a George si riduce a questo. Guardati dalla confusione di idee. Lei rammenta in quella chiesa, quando finse di essere in collera con me e non lo era, e rammenta ancora prima, quando non voleva la camera con vista. Erano abbagli quelli, dovuti a confusione di idee, piccoli ma inquietanti, e ho paura che adesso ne abbia preso un altro. Lucy tacque. Si fidi di me, signorina Honeychurch. La vita, per stupenda che sia, è difficile. Lucy continuò a tacere. Scrisse un mio amico: «La vita è un concerto per violino suonato in pubblico e devi imparare lo strumento man mano che procedi nell'esecuzione. Credo che abbia reso bene il concetto. L'uomo deve impratichirsi nell'uso delle proprie funzioni man mano che procede per la sua strada, specialmente nella funzione dell'amore.» Quindi proruppe eccitato: «Ecco, ci sono. È qui che volevo arrivare. Lei ama George.» E dopo quel lungo preambolo, le tre parole si avventarono contro Lucy simili a ondate del mare aperto. Ma sì, continuò il vecchio senza aspettare di venire smentito. Lei ama il ragazzo anima e corpo, limpidamente, schiettamente come lui l'ama, e nessun'altra parola lo esprime. Lei non vuole più sposare quell'uomo a causa di mio figlio. Ma come si permette? Ansimò Lucy con un ruggito d'acque negli orecchi. Oh, è proprio tipico degli uomini, immaginarsi che una donna non faccia altro che pensare a un uomo. Ma lei lo fa. Lucy cercò appiglio nel disgusto fisico. Lei è scandalizzata, ma è mio proposito scandalizzarla. È l'unica speranza a volte e non posso giungere a lei per altra via. Deve sposarsi, se no sarà sprecata per la sua vita. È andata troppo avanti per tirarsi indietro. Io non ho tempo per la tenerezza e per il cameratismo e per la poesia e per le cose che contano realmente e apposta per le quali ci si sposa. So che con Giorgio le troverà e che lo ama. Sia dunque sua moglie. Giorgio è già una parte di lei. Anche se le avesse a fuggire in Grecia e non rivederlo mai più, o a dimenticarne addirittura il nome, Giorgio non smetterà di operare nei suoi pensieri fino a quando morrà. È impossibile amare e separarsi. Magari non lo fosse, dirà lei. Possiamo trasmutare l'amore, ignorarlo, abbagliarlo. Mai però strapparlo fuori da noi. L'esperienza mi insegna che hanno ragione i poeti. L'amore è eterno. Lucy si mise a piangere dalla rabbia e quantunque la rabbia sfumasse rapidamente, le lacrime rimasero. Vorrei soltanto che i poeti dicessero anche un'altra cosa, che l'amore è del corpo, non il corpo, ma del corpo. Ah, lo strazio che ci verrebbe risparmiato se confessassimo questo. Ah, se ci fosse un po' di franchezza per liberare l'anima, la sua anima, cara Lucy. Detesto la parola oggi a causa di tutta la santimonia con cui la superstizione l'ha fasciata. Ma abbiamo le nostre anime. Non saprei dire come vennero né dove vadano, ma è certo che le abbiamo. E vedo che lei sta rovinando la sua. Non posso sopportarlo. È la tenebra che rispunta sorniona. È l'inferno. Qui il vecchio riuscì a contenersi. Quante sciocchezze ho detto, quanto astratte e remote. E l'ho fatta piangere. Perdoni la mia prolissità, cara figliola. Sposi il mio ragazzo. Quando penso che cos'è la vita e come raramente l'amore risponde all'amore. Lo sposi. È uno dei momenti per i quali fu creato il mondo. Lucy non poteva capirlo. Le parole erano davvero remote. Eppure, man mano che egli parlava, fu rimossa la tenebra, un velo dopo l'altro. E lei spinse lo sguardo fino al fondo dell'anima sua. Allora, Lucy. Lei mi ha spaventata, gemette Lucy. Cecil, il signor Bibb, il biglietto è comprato, tutto... Cadde singhiozzando su una sedia. Sono impigliata nell'intrico. Devo soffrire e invecchiare lontano da lui. Non posso rompere la vita intera per causa sua. Loro si sono fidati di me. Una carrozza si fermò davanti all'uscio. Dica a George che gli voglio bene. Glielo dica una volta sola e anche confusione di idee. Poi Lucy si aggiustò la veletta sopra le guance inondate di lacrime. Lucy, no, sono già entrati. Oh no, signor Emerson, la prego, loro si fidano di me. Ma perché dovrebbero fidarsi di lei, visto che li ha ingannati? Il signor Bibb aprì la porta annunciando mia madre. Lei è indegna della loro fiducia. Che roba è questa? Chiese bruscamente il signor Bibb. Ho detto, perché dovreste fidarvi di lei, visto che vi ha ingannati? Un attimo, mamma. Il signor Bibb entrò nello studio e richiuse la porta. Non la seguo, signor Emerson. A che allude? Di chi ci fidiamo? Lei vi ha dato da intendere che non amava George. Si sono amati fin dal primo momento. Il signor Bibb fissò la ragazza che singhiozzava. Era calmissimo e la sua faccia bianca, con quei favoriti rossastri, parve tutta un tratto inumana. Lunga colonna nera, egli rimase immobile in attesa della risposta. Non lo sposerò mai, piagnucolò Lucy. Un'aria sprezzante gli si dipinse in volto e disse: perché no? Signor Bibb, sono stata insincera con lei, sono stata insincera con me stessa. Via, signorina Honeychurch, che sciocchezze. Non sono sciocchezze, protestò il vecchio, riscaldandosi. È il lato della gente che lei non capisce. Il signor Bibb gli posò bonariamente la mano sulla spalla. Tommaso Ragno ha letto Camera con vista, di Edward Morgan Forster, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it.